ricordi com'era quella vita di prima, quando avevamo tutto senza avere una lira. Ti ricordi quel tempo di pane e di fantasia, quando c'era pure spazio per un po' di poesia. Ed ora con le nostre auto e le vacanze al mare, i sogni persi dentro un cellulare, con il denaro che avvelena l'anima e la mente, abbiamo tutto e non abbiamo niente. Ti ricordi com'era l'aria che si respirava, carica di promesse incontrate per strada? Ti ricordi le sere di lucciole e di bugie, quando con una chitarra facevamo magie? Ed ora con le nostre vite da pagare a rate e le coscienze sempre più malate, con il denaro che avvelena l'anima e la mente, abbiamo tutto e non abbiamo niente. Ma sotto questa luce troppo forte ormai c'è un'altra possibilità: chiudere gli occhi e immaginare la luce di una lucciola. E forse capiremo anche di non aver bisogno di tante cose, troveremo in fondo un modo per tornare a vivere semplicemente. Avremo tutto senza avere niente.